è rimasto male, eh? Senti, attacchiamo secca quell'altra. Ah, yeah. Qual è quell'altra? Quell'altra, quella che magari gli do un goccino di crunch. Per la fine di novembre. Esatto. No, anzi, lo lascio così che c'ha sto suono particolare, sì, eh? Sì. Allora! One, two, three, four! Questa è la Nottedo, vai Peter! I'm not questa Still of the Night, White Snake. Aspetta che mi ricompongo un attimo dopo. Allora, questa è la Nottedo, nel caso foste, vi foste messi in contatto soltanto adesso. Beh, strano comunque, sarebbe parecchio strano. Sono le 3.53. Questa è Rock FM, questa è la Nottedo, hosted by il DJ Edo Rossi. Abbiamo un po' di ospiti pronti ancora a gemmare e suonare, perché come vi avevo annunciato e promesso, la Nottedo avrebbe avuto questo carattere. Allora riapriamo i microfoni della casa del grande bordello. Allora, buonasera. La casa del grande bordello. Sì, esatto, esatto. Forza, fuoco alle polveri. Yeah. And now you do what they told ya. Don't shoot tie, I justify the wearing the badge, got the chosen white. You justify, don't say die, the wearing the badge, got the chosen white. And don't shoot tie, I justify the wearing the badge, got the chosen white. You justify, don't say die, the wearing the badge, got the chosen white. So my those the wild forces. Hearts in the burning crosses. Some of those that want forces are the fucking same the ones to close Rock FM. All of those that want forces are the same the burn crosses. Some of those that want forces are the same the burn crosses. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Don't shoot die. I justify the wearing the badge of the chosen white. And don't shoot die. I justify the wearing the badge of the chosen white. Justify. Don't say die. The wearing the badge of the chosen white. And don't shoot die. I justify the wearing the badge of the chosen white. Hey, yeah. Tell me, fuck you. you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't close our FM. Fuck you, we want to close our FM. Fuck you, we want to close. We want to close, we don't wanna fucking close to Rock FM, okay? Motherfuckers! Rock FM, please. Cazzo, complimenti. Ragazzi, complimenti, veramente. Veramente. C'era Tongio al basso, il Borchi alla batteria, la voce Aldo, la chitarra French. Maniscalco, maldestro. E nel frattempo abbiamo già pronto il pezzo. Che fate? Mi dai una mano? Mi dici che fate, Tongio? Dunque, esibiremo un nostro balzerino di fama internazionale. Ah, un pezzo Maniscalco? Pezzo Maniscalco. Ah, bene, bene. Nel frattempo, dunque, nel frattempo vi ricordo che siete su Rock FM, questa è la Nottedo. In realtà, tra l'altro, vi volevo comunicare, cari colleghi, cari compagni musicisti, eccetera, che io ho detto che avremmo chiuso alle 4. Ragazzi, porca miseria, che bordello che fa. Dicevo che avremmo chiuso verso le 4, ma ho scoperto che non ci sono canzoni caricate nel computer fino alle 7. Gemmiamo. Cioè, questo potrebbe voler dire che ci tocca tirare fino alle 7. Poi vediamo se magari mi faccio dare una mano. Borchia, noi dobbiamo fare. Sì? Buonasera, cosa dobbiamo fare adesso? Scusa, sei diventato Borchia discografico. Sono diventato discografico, sì. Adesso sono molto più diplomatico del normale. Sì, dobbiamo trovare. Dobbiamo poi inventarci qualcosa, eh. Sì, cosa inventiamo? Vabbè, ora poi ne parliamo. Sailor, che ti ho detto, hai scoperto da me che era un pezzo dei Queen. Sì, hai scoperto da te, ma non l'ho ancora trovato, devo capire in che albums è. Adesso te lo dico. Album. Yeah, ok. Yeah. Allora, i ragazzi stanno già smanettando, quindi Maniscalchi pronti. A manetta. Via. Ragazzi, no. Ci siamo. Aspetta le 7, ci siamo. Non so. Si aspetta. Andiamo, allora. Che ci divide, shalala, shalala. Tra sta colma di amore circostanza, shalala. Come un vuoto che distrugge il mio cuore, distanze e chilometri. Come un volto che si strugge il mio cuore, distanza di attimi. Scenico, instabile di pensieri, la speranza della vanità o nessuna, come polvere che ricopre vivo e vedo, ma no, no. Yeah. FM. Stiamo avviando alla fine, eh?